Ad alta voce, edizione 20 anni. Galatea Ranzi legge Panorama di Tommaso Pincio. Di nuvole così cupe, radunate da un freddo vento invernale e da una pioggia così insistente, che di andar fuori a passeggiare non si parlò neppure. Ottavio Tondi, Memorie delle cose lette prima di dire m'addormento, appunto numero 84. Tondi dominava l'inglese, orecchiava il francese e, come ogni italiano, era in grado di intendere lo spagnolo. Non di meno detestava ogni contaminazione della lingua con la quale era cresciuto. Leggere o udire anche una sola parola straniera era per lui un affronto terrificante. «Non c'è tortura peggiore», diceva. «Le sofferenze di un campo di concentramento sono niente al confronto». Tutti i libri che leggeva o erano libri scritti da italiani o erano traduzioni. Teneva in gran conto l'arte negletta dei traduttori e irrideva chi si vantasse di leggere in lingua originale, nella stupida convinzione che soltanto così si apprezzi la vera anima di un libro. «Che immane sciocchezza», diceva. «Leggere è di per sé una traduzione». Possiamo dunque immaginare con quanto fastidio abbia accolto chi gli magnificò il nuovo mondo dei social network e più in generale di internet, affinché si iscrivesse a Panorama. Dovette infastidirlo non poco anche che il suo iniziatore fosse il poeta Mario Esquilino, persona che sopportava a fatica. Ma non poté fare altrimenti, avendo nei suoi confronti un debito di gratitudine. Inoltre, nei termini in cui Esquilino glielo descrisse, Panorama sembrava offrire un'opportunità di rimettersi in sesto, o perlomeno in gioco. E lui aveva un disperato bisogno di opportunità. Dopo il pestaggio di Ponte Sisto, la sua vita era diventata una pena. Sebbene nell'immediatezza del fattaccio nulla si fosse presentato coi tratti dell'irreparabilità, stando ai medici, le lesioni, seppure serissime, sarebbero guarite. È soltanto questione di tempo, gli garantivano, tornerà più sano di prima. Quanto alle ferite dell'anima, che gli procuravano incubi sia notturni che diurni, i medici non potevano dare assicurazioni. Dipendeva in primo luogo da lui. Poteva tuttavia contare sulla solidarietà. L'emozione e lo sdegno furono enormi. Per giorni quotidiani e televisioni non parlarono d'altro. Il ministro dei beni culturali, un progressista appassionato di cinema che scriveva romanzi a tempo perso, gli fece visita in ospedale, restituendogli la copia insanguinata di Bruce la Morta recuperata dalla polizia sul luogo del pestaggio. L'incontro, immortalato ovviamente dalle telecamere, commosse il paese. L'opinione pubblica si mobilitò. Le vendite delle librerie raddoppiarono dal giorno alla notte. Soltanto Bruce la Morta vendette più di 200.000 copie in una settimana. Le strade si riempirono di persone che per protesta e in difesa della cultura camminavano leggendo un libro. Naturalmente si tenne una lettura di Bruce la Morta su Ponte Sisto. Gli scrittori vi parteciparono in massa. Aderirono anche attori famosi, tra cui perfino Willem Dafoe, spesso a Roma per motivi personali. Sembrava che la nazione intera aspettasse soltanto che Tondi si rimettesse abbastanza in forze da tenere una delle sue letture pubbliche. C'era ottimismo al riguardo. In fondo non aveva che da sedersi su un divano. Il sindaco, anche lui accorso al capezzale del martire della lettura, prese l'impegno di individuare un luogo adeguato all'importanza dell'evento. Da principio propose il Circo Massimo, poi cambiò idea. Forse era più adatto allo Stadio Olimpico. Quindi ritornò all'ipotesi di partenza, perché in fondo il Circo Massimo era più suggestivo. Ciò nonostante, malgrado le tante dimostrazioni di affetto e solidarietà, l'umore di Ottavio Tondi si faceva sempre più tetro. E non tanto per i dolori e gli incubi che gli toglievano il sonno, e neppure per il fatto che Maddalena non fosse apparsa in ospedale né avesse dato altro segno di essere in pena per lui. era per qualcosa di più indefinito. Un presentimento che si annusava nell'aria, un odore mortuario, di medicina legale, non molto diverso da quello avvertito su Ponte Sisto. Il direttore editoriale, per esempio. Era sì venuto a fargli visita, ma una volta soltanto e per breve tempo. Gli aveva detto di rimettersi perché c'erano montagne di manoscritti che lo attendevano, ma il suo tono era stato sfuggente, per nulla convinto. Dopodiché era scomparso. Tondi ripensò allora a certe novità dei mesi precedenti. Il direttore editoriale non era più quello di un tempo. Sembrava sempre meno interessato ai libri, non che prima fosse chissà quale vorace lettore, ma almeno i libri restavano al centro dei suoi discorsi. Ora evitava di parlare di letteratura e del suo ambiente, dirottando la conversazione su altri argomenti, sul cinema, la televisione, la politica, la moda, il calcio addirittura. Ma non era nemmeno questo. La novità era rappresentata dal modo in cui parlava, vale a dire con superficialità ostentata, con un cinismo orgoglioso, con un culto spudorato per l'effimero. In effetti, nemmeno questo costituiva chissà quale sorpresa, giacché il direttore editoriale non si era mai distinto per idealismo e profondità. Tondi non riusciva però a togliersi dalla testa una maldicenza abbastanza diffusa giunta alle sue orecchie anni addietro. Si diceva nell'ambiente che quel direttore editoriale avesse la moralità e il fiuto di un topo, che la sua maggiore qualità fosse di capire all'istante se una barca stava affondando e il suo peggior difetto era ovviamente quello di essere il primo ad abbandonarla. L'immagine si attagliava al soggetto in questione, ma Tondi aveva sempre ritenuto che fosse comunque un'esagerazione messa in giro da scrittori frustrati per l'insuccesso dei loro libri, per l'essersi sentiti scaricati e non sostenuti in proporzione ai loro meriti. Quando uno di questi scrittori, venuto a fargli visita in ospedale, gli disse che tra gli invitati dell'ultima festa a casa del direttore editoriale c'era anche Loretta Buia, Tondi dovette concludere che non si trattava affatto di esagerazione. Un cerchio si stava chiudendo, e non nel migliore dei modi. Loretta Buia. Che ingiusta assurdità che una persona come lui dovesse fare i conti con una figura di tale squallore. Ma tant'era. Loretta Buia e i suoi insulti, le miserevoli arguzie d'osteria, lo sfrenato bisogno di sporcare tutti e tutto, erano diventati la sua nemesi. Trascorsi un paio di mesi dal pestaggio di Ponte Sisto, la Buia lanciò un'illazione delle sue. Avanzò il dubbio che Tondi non fosse stato picchiato perché leggeva un libro, ma semplicemente perché era un povero sfigato, una persona capitata lì per caso e con la quale era facile prendersela. Scrisse che era ovviamente dispiaciuta per il fatto, perché nessuno, nemmeno un ciccione sfigato, meritava di essere pestato a sangue, ma per favore, basta con la retorica dei libri e della lettura. La Buia non lo disse in termini espliciti, ma non ci voleva di certo un genio per cogliere l'insinuazione. Tondi aveva speculato sulla violenza subita. Si era inventato la storia nobile e bella del libro per un misero tornaconto personale, forte della mancanza di testimoni e di una controparte, giacché gli autori del pestaggio erano ovviamente rimasti ignoti. La Buia fu inoltre abbastanza scaltra da non scrivere queste cose sul presente, evitando così il rischio di una levata di scudi da parte della comunità intellettuale. Le scrisse con artata noncuranza sul web, il cui popolo aspettava soltanto un nuovo bersaglio sul quale scagliarsi. Ciò che non aveva scritto lei fu scritto da commentatori anonimi e con accenti di violenza inaudita. Tondi non lesse le parole di odio che ogni giorno gli venivano riversate addosso, ma gli furono riferite. Lo addolorarono, ma non ne restò sorpreso. Non si sorprese nemmeno che le voci accorse in sua difesa fossero poche e timide. Il linciaggio andò avanti per settimane, nella completa indifferenza della stampa. E quando una ragazza milanese venne aggredita e stuprata perché colpevole di leggere un libro su una panchina di Parco Lambro, l'indifferenza proseguì. La stampa condannò la violenza, come era ovvio che fosse, ma sorvolò sulla versione che la ragazza diede dei fatti. che quegli uomini avessero abusato di lei, dicendole a più riprese che così andava trattata una troia di biblioteca, sembrava non importare a nessuno. Anche il popolo del web stigmatizzò la violenza, ma quanto alla faccenda del libro, non mostrò alcuna comprensione e non espresse alcuna vera simpatia per la ragazza. Un altro fatto sconvolgente accadde a distanza di una decina di giorni. Un uomo venne ucciso nella metropolitana. Fu travolto da un treno in arrivo nella stazione di Numidio Quadrato. Lo spinse sui binari un altro uomo che si rifiutò di spiegare il gesto. Le persone presenti testimoniarono e le telecamere di sorveglianza lo confermarono che la vittima stava leggendo un libro. Anche in questo caso, però, il particolare della lettura non ebbe il minimo risalto sulla stampa. È il presente, fu lo scarno ed enigmatico commento che Tondi diede a un amico scrittore, lo stesso che gli aveva detto della presenza della buia alle feste del direttore editoriale. E quando l'amico gli chiese cosa intendesse, lui rispose così: «Che vuoi che ti dica? Qui in ospedale non ne possono più di me. Non vedono l'ora che mi tolga dalle palle». Tondi venne dimesso pochi giorni dopo, sebbene fosse ancora bisognoso di cure. Lui non protestò. Tornò a casa e cercò di cavarsela come meglio poté, pagando un'infermiera finché non tornò autonomo. Soltanto allora osò riprendere un libro in mano. Vista l'aria che tirava, visto il presente, non faceva chissà quale affidamento in quella ripresa. Non pensava affatto di tornare a riempire i teatri né di leggere manoscritti per le case editrici. Sapeva bene che nessuno l'avrebbe cercato, ma voleva comunque riprendere a leggere. Cos'altro poteva fare? Si sedette sul divano tenendo nelle mani il libro di quella notte, la copia di Bruce la Morta ancora macchiata di sangue. Se doveva riprendere a leggere, doveva cominciare da quel libro. Lo osservò a lungo, lasciandosi invadere da pensieri e ricordi, quindi lo aprì. Non lo aprì alla prima pagina, ma in una a caso, e il caso optò per l'inizio del sesto capitolo. Hughes rifletteva sul potere indefinibile della somiglianza. Non andò oltre quelle parole. Non poté. Fu assalito da un senso di nausea tale da obbligarlo a correre in bagno, dove vomitò l'anima. Ripresosi, ripeté il tentativo con risultato identico, se non peggiore. Al quarto tentativo, esausto, smise. Riprovò il giorno successivo, cambiò il libro, ma gli esiti rimasero gli stessi. Dopo una settimana trascorsa a quel modo, Tondi capì che non avrebbe più letto per il resto della sua vita. Si iscrisse a una scuola guida. A lume di naso, ben altre sembravano le priorità. Pensare cosa fare, per esempio. Cercare un lavoro. Ma non sapeva fare nulla salvo leggere. Che lavoro avrebbe potuto trovare? Commesso in una libreria, forse. Ma quanto sarebbe durata? Le librerie non avevano futuro. In molte avevano già chiuso o ci stavano pensando. Tondi era inoltre oppresso da un bisogno più impellente. Stare in casa, in quella sua casa dove non c'era parete che non fosse tappezzata di libri, gli risultava ora intollerabile. Anche la vista del divano rappresentava un peso. Lo guardava e gli tornavano alla mente le parole di Loretta Buia. «Fatemi capire, applaudire una persona perché si è portato un orrendo divano da casa è un nuovo modo di dire ciccione è bello». La casa nel suo complesso ancora non lo obbligava ad andare in bagno per vomitare, questo no, ma poco ci mancava. Doveva uscire, girare, evitare di arrovellarsi. Camminare sarebbe stato lo sfogo ideale, non fosse che era ancora impedito dai dolori e non poteva camminare a lungo. Stabilì così di fare quel che non aveva fatto finora. Prese la patente. Acquistò un'auto, una piccola utilitaria usata. Mi piaceva molto questa parola, utilitaria. Gli ricordava tempi che non c'erano più. Anche allora si era sentito ai margini, ma non fuori posto come adesso. Usciva al mattino, saliva sulla piccola utilitaria e cominciava a girare. I primi tempi, per prendere confidenza con la guida, si limitò a girare per Roma. Col tempo, però, gli ingorghi metropolitani gli vennero a noia. Procedere a singhiozzo gli dava sui nervi e così il dover restare in attesa ai semafori, come pure lo irritava la guida degli altri automobilisti. finché un giorno, in un impeto di esasperazione, abbandonò la città. Non aveva una meta precisa, ma si ritrovò sulla pontina, tra i filari di pini mediterranei. Ebbe l'idea di andare all'idroscalo di Ostia. Non fu una bella idea. Vedere il luogo dove Pasolini fu martoriato lo incupì, gli riportò alla mente pensieri che non voleva pensare. Rientrò in città con un macigno nel petto e fece un'altra cosa malsana. Andò a Trastevere e si appostò nei pressi del palazzo in cui viveva Maddalena. Seduto nell'abitacolo della sua piccola utilitaria, sorvegliò per ore il portone. Sperava di vederla uscire. Non sapeva bene cosa le avrebbe detto nel caso fosse uscita. Probabilmente nulla. Forse si sarebbe persino abbassato dietro il cruscotto per essere sicuro che lei non lo vedesse. A ogni modo lei non uscì. Non uscì nemmeno il giorno successivo e neppure quello dopo ancora. Perché il giorno successivo e quello dopo ancora, Tondi tornò ad appostarsi nei pressi del portone. Galatea Ranzi ha letto Panorama di Tommaso Pincio, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.